quando ti do il segnale si aumenta. Tu mica te ne accorgi, si aumenta. Ok, dai, adesso provo. Allora, adesso è attaccato, eh. Adesso è attaccato, come mi senti? Il telefono che non funziona. Facci da 9.20 a 9.30, perché non funziona. Va benissimo. Sì, c'è una saturazione, però sì, chiaro chiaro, eh. Sì, perfetto. Perciò c'è un... c'è un qualcosa che non va a vista. C'è un disaccordo tra amplificatore e apparecchio. C'è un'altra cosa, che adesso mi sono accorto che quando ho spento il lineare, l'amplificatore, mi si accendeva la spia, invece quando l'ho acceso l'amplificatore era tutto tranquillo. Come ti ha detto Luca, perché c'è un disaccordo di stazionare, quindi con l'amplificatore te le abbatte, senza l'amplificatore te le segna. E tu, comunque ciao, buonasera, ben ascoltato, io sono Claudio Sparviero e trasmetto da Sassari via Pasco, dove hai visto tutte quelle antenne. No, Sparviero, c'è una vita buona, dai. Comunque sono K2, saluto, ciao. Ciao K2, stavo ascoltando con Luca, visto che non c'è nessuno, sono entrato a salutare. Ti ho chiamato Luca poco fa, cioè poco fa, verso le 10, ma c'aveva il telefono, aspetta. Mi ha chiamato Massimiliano e domani dopo pranzo vado da lui. Capito? Quindi domani sera sto proprio. Le faccio dare una controllatina, se ti sta a posto, e poi vieni, te lo prendi, con la vedipenti anche l'alimentatore, e niente, ok, va bene, dai, io non so se sto uscendo bene, sto uscendo male, qua non mi sta segnando niente, io non ho baracchini, sto trasmettendo con HF, però è da tanto che non uso, quindi non so manco se sto uscendo bene. Va bene, ciao K2, ben ascoltato, ci sentiamo la prossima volta che ti sento e ti ho salutati. Ciao Lugarie, ci sentiamo e ci vediamo domani, già ti chiamo al telefono, ok? E non ce l'hai, aspetta, tranquillo, vai, io le macchine devo andare là, dove ti ho detto, saranno un paio d'ore, la mattina e un paio d'ore la sera, tanto, hanno fatto 30 e adesso con la dei 31. Poi tranquillo, non le ho fretta qua. Tranquillo, tranquillo. No, lui prima te lo prendi meglio. Meno tu usi, inizi a capirlo, a regolartelo come vuoi tu, eccetera, eccetera. Poi facciamo le prove assieme, ci spostiamo, facciamo le prove assieme. Te l'avevo detto ed è pronto. Prima di dartelo, voglio essere sicuro che tutto è a posto. Te l'hai provato. Però voglio essere sicuro io, ho detto tecnicamente, cioè domani glielo porto e poi quel colore del frontalino non mi piace, le faccio mettere l'altro frontalino, quello più nuovo mio, non quello che hai visto tu di quella persona, l'altro, quello che c'era sopra, e le faccio mettere l'altro frontalino che è più nuovo, più bello, ok, dai. Vabbè, comunque ti faccio uno spillo domani appena tutto pronto. Ciao di nuovo a tutti e due, a te K2, mi stai ascoltando, sì? Sì, a voglia. Niente, ciao Sparviero, se non mi sbaglio. Ci sentiamo la prossima volta, dai. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao Lugaria, domani. Ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, buonanotte. Ciao, buonanotte, domani. Tranquillo, non mi sei aspettato, Leo. Cioè, tranquillo. Sei sereno. Comunque, da panza, anche io non so più, le chiamo mezzanotte, già ti farò sapere, dai, appena devo fare una cosettina qui, se ti fai trovare io proprio non ne ho. Comunque, quando mi hai detto qui, ma sono io, non ce ne ho problemi, io non mi nascondo, però vuoi sapere chi è che te l'ha detto. Ma non c'è problema, l'ho fatto io, vuoi dire, niente, stavo parlando con un po' con il mio cugino, il marito di mia cugina, Fernando ci chiama. Fernando. Niente, sono chiesto a me si conosceva perché niente, io faccio il baracchino, niente, ma poi c'è solo lui, Luca, di lì, con la zona. Sicuramente Luca ma di lì, c'è solo lui. Cazzo, dunque, quando già ti faccio sapere, fatti sentire più spesso, facciamo venire al moto, non ho problemi. Non ti fai trovare, ci troviamo. Poi se vedi la station di Claudio, allora rimane la bocca aperta. Perché baracchino è baracchino, non sono grande. Vabbè, io sono abituato a queste piccolette, dai, mi accontento. Ce l'avrei anche visto, un Dino Fiat, che era sempre stato sequestrato lì alla Tini. E perché se l'ho sequestrato? Perché non avevo pagato il conto, credo. È vero, perché la distribuzione, il coso, il deposito ce l'aveva posta. Vabbè, comunque li ho conosciuto tanti. A me arrivo a fare Martini. Autotreni di Martini, allucinante qua. Un bel. Che cazzo di positivo? No, è il posto.